Storie italiane. La principessa farfalla. Molto tempo fa viveva una bellissima principessa, con la pelle pura come la sua anima e con occhi profondi in cui perdersi. Era famosa in tutti i regni vicini, non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo ingegno e la sua intelligenza. Molti principi desideravano diventare il suo cavaliere dall'armatura scintillante, ma fallivano. Un uomo, con tanta magia da poter prosciugare gli oceani, si innamorò profondamente di questa principessa. Il mago si recò al castello per chiedere la mano di Scila in matrimonio. «Bella principessa, sono venuto per chiedere la tua mano in matrimonio!» Ma la principessa rifiutò. «Non sei degno!» Questo fece arrabbiare molto il mago. L'amava troppo per lasciarla andare. Quindi la trasformò in una farfalla. Scomparvero nel nulla prima che qualcuno potesse capire che cosa era accaduto. Le promise di restituirle la sua vita se solo lo avesse sposato. Ma ancora Scila lo rifiutò. «Bella principessa, perché mi rifiuti ancora?» «Non sei degno!» «Non ne vale la pena? Ma tu sei una farfalla! Amami, tornerai ad essere un essere umano!» «Mai!» Ma una notte ebbe la possibilità di scappare e lei la colse. «Cosa ti costa, principessa? Essere d'accordo?» «È scappata!» «Volare è faticoso!» «Sciù! Vai via!» «Ah!» Per un momento la principessa dimenticò di essere una farfalla, ma la principessa testarda si asciugò le lacrime e andò avanti. «Oh no! Cos'è questo?» «Chi è il mio nuovo visitatore?» «Io sono la principessa!» «Che bella farfalla!» «Perché i ritratti di me sulle tue pareti?» Il pittore non sentì le sue piccole parole. La voce della principessa era così bassa che nemmeno un moscerino avrebbe potuto sentirla. «Stai ammirando i miei dipinti della principessa? È la donna più bella che abbia mai visto. Il suo volto è sempre nei miei sogni, quindi la dipingo.» «Ma io sono la principessa! Cosa stai facendo? Lasciami andare!» «Non preoccuparti. Ecco qua mia nuova amica farfalla.» Il pittore catturò la principessa senza sapere che era proprio la principessa che tanto amava. Due giorni dopo, una volta riparata la sua ala, il pittore la liberò nella natura. La principessa volò e volò, non sapendo dove andare. «Oh, oh cielo! Dove vado?» Trovò una cascata. Le ricordò una cascata presso la quale andava a cantare ogni volta che la luna piena era in cielo e cantò fino a riempirsi il cuore. Pian piano cominciò a piangere e a canticchiare una melodia triste. Non sapeva che la cascata era la casa di una dea. «Hai una voce squisita, piccola farfalla. Sono una principessa. Ho sentito il tuo ronzio dall'interno della mia cascata.» «Ronzio? Pensavo di cantare.» La principessa ancora non aveva capito che nessuno poteva sentire la sua vera voce. «I semplici mortali non possono sentirti. Ti concederò il potere della voce.» Si sentì così la vera voce della principessa. La principessa farfalla cantò di nuovo con tutto il suo cuore. Questo impressionò così tanto la dea che decise di concedere un desiderio alla principessa. Oh, grazie, Dea! Raccontò alle Dea la sua storia e le disse che il suo unico desiderio era quello di tornare umana. Non posso fare nulla del genere, perché l'incantesimo è troppo potente per essere annullato per sempre. Cosa intendi con per sempre? Posso ridarti la tua forma umana, ma solo per 2 minuti. Oh, grazie, grazie! L'unico modo per rompere veramente l'incantesimo è uccidere colui che l'ha lanciato su di te. Quel miserabile vecchio mago mi ha fatto questo! Se riesci a sconvincere questo mago, tornerai completamente umana. La dea le disse che i 2 minuti sarebbero arrivati in un momento di grande bisogno. Poi, una volta passati i 2 minuti, tornerai farfalla per sempre se non riuscirai ad uccidere il mago. Sì, Dea, so cosa devo fare. Ah, la mia piccola farfalla è tornata. Devi aiutarmi. Aiutami, per favore. E tu puoi parlare? Come posso aiutarti? Io sono la principessa Skyla. Ho bisogno del tuo aiuto per tornare me stessa. Non capisco. Come puoi essere la principessa? L'oggetto del mio amore e di tutto il mio affetto per tutti questi anni. Sei solo una farfalla. Un mago malvagio innamorato di me mi ha trasformata in questo modo e mi ha catturata. Sono a fatica scappata dalla sua aquila. Sono arrivata qui mentre cercavo di scappare. Il pittore fu imbarazzato. Questa farfalla parlante poteva davvero essere la principessa Skyla? Dovrai dimostrare di essere la principessa. Senza senso. Quindi dovrei credere ad ogni farfalla parlante che vaga nella mia casa? Aveva ragione. Ottimo. Chiedimi qualcosa che solo la vera principessa potrebbe sapere. Cosa ti ha regalato tuo padre per il tuo 6° compleanno? Questo è facile. Un glorioso pony che continua a cavalcare ancora oggi. Beh, quando ero umana. Giusto. Oh mio Dio, tu sei la principessa. Sono così onorato di averti a casa mia. Sì, sì. Onorato, dobbiamo sbrigarci, il mago! Certo, mia principessa! Cosa stai facendo? Dobbiamo andarcene subito! Dovrei catturare un mago a mani nude, mia signora? Ho armi e armature qui da qualche parte! Non il più feroce dei guerrieri, eppure di fronte alla sua principessa, pronto a sacrificare la sua vita per lei. Qualcosa si accese dentro di lui. Da quanto tempo mi dipingi? Dal giorno in cui sei nata. Ti ho trovato subito molto interessante. Non sapevo che saresti diventata così meravigliosa. La principessa capì che questo pittore era l'uomo che aveva cercato per tutta la vita. Non dovremmo andare, mia signora? Sì, dobbiamo affrettarci per il castello del mago. Farò strada. Viaggiarono verso il castello scuro e cupo del mago. La sua camera da letto è qua giù. Se dorme, forse possiamo ucciderlo prima che si svegli. Speriamo. Non sono un gran cavaliere. Chi va là? Oh, cielo! Chi osa entrare nella mia casa? La principessa Skyla e il suo coraggioso guerriero. Questo sciocco tremante vuole essere mio avversario? Ah! Oh no, mia principessa! Sei diventata umana per salvarmi! Tu sei il mio cavaliere, il mio vero principe! Vedendola sul punto di morire, il mago cambiò idea. Che lei provi per me ciò che io provo per lei o no, la amo troppo per lasciarla morire. È andato! Sono umana di nuovo! Andiamo a casa, mia principessa. Presero un cavallo alla stalla del mago e partirono per il viaggio di ritorno verso casa per iniziare la loro nuova vita insieme. E vissero felici e contenti.